9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no, tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no, tu no, vengo anch'io, no, tu no, vengo anch'io, no, tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti, ora che è primavera. Vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno, buon giovedì 6 di dicembre 2012, un auguro a coloro che si chiamano Nicola, San Nicola oggi, e diciamo che le pillole ve le metto tutte in fila senza interrompere la musica e senza ogni volta fare la pausa. Da dove cominciamo oggi prima di arrivare al tema del giorno? Il tema del giorno, ve lo ripeto, sono da una parte ancora una volta i suicidi degli imprenditori e dall'altra lo scippo che grazie al cielo questa notte è stato evitato per una volta grazie alla Ragioneria Generale dello Stato, va ringraziata, perché PD e PDL stavano mettendo le mani sulle condizioni di vendita di case private, di case delle casse privatizzate, ne parleremo più avanti, ma come vedete PD e PDL non mancano mai di confermare che possono polemizzare quanto volete, possono dirsi eticamente avversi, ma quando si tratta di unirsi in cose sbagliate, tipo la proroga delle concessioni balneari per 5 anni al posto delle gare, puntualmente passata questa invece nel decreto sviluppo, oppure come lo Stato che detta condizioni nelle case altrui, cioè quelle dei privati, ecco che PD e PDL misteriosamente in nome dei voti iniziano a convergere in Parlamento. Ma prima di questo vediamo di fare qualche riflessione al volo sui temi di oggi. I giornali oggi non danno grande evidenza al contratto dei metalmeccanici firmato da Federmeccanica, FIM e Wilm, FIM sono i meccanici della CISL. Sì, voglio dire, il Corriere ci apre la pagina dell'economia, il Sole 24 gli dà molto rilievo, per il resto niente. Sbagliato, secondo me. Naturalmente FIOM non l'ha firmato, ma quello è il contratto più importante nel comparto dell'industria italiana, industria manifatturiera italiana. È un'intesa che prevede per un quinto livello 35 euro lordi in più in busta paga nel 2013, 80 nel 2014, 130 nel 2015. Certo, non stiamo parlando di chissà che cifre, però la notizia è che è stato rinnovato senza un'ora di sciopero. Ma invece i giornali, ovviamente, se non c'è il disastro sopra, nulla, errore. Naturalmente la prossima volta che la FIOP, che non firma neanche questo, e che dopo non averne firmati tanti, ricordo, nella vicenda Fiat si è ridotta invece a chiedere il rispetto delle regole di uno di questi che non aveva firmato, ovviamente la stampa si sveglia solo quando c'è, per così dire, sangue e rumore. Sbagliato, un difetto secondo me della nostra categoria. Seconda cosa, gli aumenti delle entrate. Ovviamente il paese sta perdendo più vicino a 3 punti di PIL che 2, perde reddito le famiglie italiane meno 3 e rotti per cento, i consumi sono a meno 3,6, meno 3,7, ma invece le entrate aumentano ed è questo il tipo di mix di finanza pubblica che ovviamente

la cosa che mi sembra è che si voglia sancire l'intoccabilità assoluta del Presidente della Repubblica, e non mi pare neanche questa che ci sia in Costituzione. La Costituzione delimita i casi nei quali il Presidente non risponde o risponde solo in alcuni particolari casi di quello che fa, ma qui stiamo parlando di un'altra cosa, e quindi la mia opinione è che questa volta chi si scandalizza perché viene giudicata politica la sentenza della Corte Costituzionale è di quelli che ragiona con gli occhiali dell'ideologia, per cui se sei contro gli eccessi della magistratura lo devi essere sempre a prescindere dal merito. No, io considero che vi siano degli eccessi, ma giudicandoli solo dal merito, e non è quindi che mi schierano un partito pro o contro a prescindere dal merito. Comunque, la mia opinione è quella di ringraziare i colleghi del Fatto che su questo accendono un faro diverso da quello che è il coro che essi giustamente lamentano, il coro che dice che c'è un solo colpevole, in quel caso la Procura di Palermo. Andiamo al tema di oggi, che è un tema molto doloroso, e tanto per ricordarvi quanto è doloroso, io vorrei farvi un piccolo ripasso, per così dire, che comincia dal 2 gennaio del 2012. 2 gennaio del 2012, a Bari, 74 anni, un pensionato si getta giù dal balcone. Il 9 gennaio 2012, ancora a Bari, due pensionati, 64 e 69 anni, si suicidano in coppia. 12 gennaio 2012, Arzachena, Sardegna, un commerciante di 39 anni tenta di asfissiarsi, viene salvato. 5 febbraio 2012, Sanremo, Liguria, 47 anni, un elettricista, si spara. 10 febbraio 2011, Napoli, un commerciante si impicca. 12 febbraio 2011, 2012, Vigonza, imprenditore, si spara. 15 febbraio 2012, Paternò, quindi siamo a Catania, un imprenditore di 57 anni si suicida impiccandosi. 22 febbraio 2012, Trento, a 44 anni, per i troppi debiti, un uomo si getta sotto un treno. 25 febbraio 2012, Sanremo, Liguria, 47 anni, un suicidio, di nuovo per la crisi economica. 26 febbraio 2012, Firenze, 65 anni, un imprenditore si impicca. 27 febbraio 2012, Verona, un imprenditore tenta di darsi fuoco, la banca gli ha negato un prestito di 4.000 euro. 2 marzo 2012, Pordenone, Friuli, 46 anni, un magazziniere si suicida. 2 marzo 2012, Ragusa, Sicilia, commerciante, tenta di darsi fuoco. 9 marzo 2012, a Taranto, 60 anni, un commerciante trovato impiccato, non ce la fa più. 9 marzo 2012, Genova, 45 anni, un disoccupato sale su un traliccio della corrente e rimane colpito da una scossa molto grave. 10 marzo 2012, Torino, 59 anni, un muratore si dà fuoco. 14 marzo 2012, Trieste, 40 anni, appena perde il posto di lavoro un disoccupato si dà fuoco. 15 marzo 2012, Lucca, 37 anni, un'infermiera ingerisce acido, non sa più come fare per l'affitto. 21 marzo 2012, Cosenza, 47 anni, un disoccupato si spara. 21 marzo 2012, Lecce, 29 anni, un artigiano si impicca. 23 marzo 2012, Pescara, 44 anni, un imprenditore si impicca. 27 marzo 2012, Trani, 49 anni, un imbianchino disoccupato si getta dalla finestra. 28 marzo 2012, Bologna, 58 anni, si dà fuoco davanti all'agenzia delle entrate. 29 marzo 2012, Verona, un 27enne operaio, si dà fuoco. 30 marzo 2012, Novara, un imprenditore tenta suicidio in un canale. 1 aprile 2012, Sondrio, 57enne, perde lavoro, cammina sui binari, vuole suicidarsi, per fortuna lo vedono, il treno si ferma. 2 aprile 2012, Roma, 57 anni, un corniciaio, si impicca. 3 aprile 2012, Roma, 59 anni, un imprenditore si spara col fucile, troppi debiti. 3 aprile 2012, Gela, una pensionata 78enne, a cui è stata ridotta la pensione, si getta dalla finestra. 3 aprile 2012, Catania, 58 anni, un imprenditore si spara, troppi debiti. 4 aprile 2012, Roma, un imprenditore si spara al petto con il fucile, la sua azienda stava fallendo e non sapeva più come fare. 4 aprile 2012, Milano, 51 anni, un disoccupato si impicca. 9 aprile 2012, 90 di piave, un falegname si impicca nel suo laboratorio. 10 aprile 2012, Vicenza. L'azienda del marito è in crisi e lei si uccide impiccandosi all'altalena. 13 aprile 2012, Treviso si impicca nel caparone della sua azienda. 12 aprile 2012, Arezzo, perseguitato da Equitalia, un imprenditore di 27 anni, si suicida col gas. 13 aprile 2012, Bolzano, un 39enne si brucia vivo nella sua auto. Troppi debiti e troppe tasse da pagare senza sapere come. 13 aprile 2012 sempre, Lecco, un imprenditore di 42 anni si butta da un ponte, la sua impresa in difficoltà. Sempre il 13 aprile 2012, Roma, un agente di commercio tenta di darsi fuoco. Ancora 13 aprile, Ragusa, Sicilia, un 28enne imprenditore agricolo si impicca. Sempre il 13 aprile, a Firenze, un disoccupato si lancia sotto un treno. Sempre il 13 aprile, Vicenza, un imprenditore si spara in una pubblica piazza. 15 aprile 2012, Lucca, donna tenta il suicidio per aver perso il lavoro. 17 aprile 2012, Ferrara, un pescatore tenta il suicidio per debiti a cui non sa come far fronte. 18 aprile 2012, Vicenza, un pizzaiolo morto suicida. Piccoli debiti, ma non ce l'ha fatta più con la testa. 20 aprile 2012, Belluno, un imprenditore edile si impicca non potendo riscuotere i crediti che lo Stato non gli paga. 21 aprile 2012, Crispiano, in provincia di Taranto, un disoccupato tenta il suicidio. 22 aprile 2012, Cagliari, un senza lavoro pieno di debiti, si uccide. 23 aprile 2012, Venezia, un licenziato si getta nel vuoto. 24 aprile, Napoli, per troppe cartelle Equitalia, un imprenditore si suicida al vomero. 29 aprile 2012, Lecce, questa volta è un giovane imprenditore che si spara un colpo in testa per la stessa ragione. 30 aprile, di nuovo a Napoli, riceve la lettera di licenziamento e un portiere di 55 anni si impicca. 30 aprile, Nuoro, Sardegna, costretto a licenziare, compresi due figli nella sua impresa, si spara. 1 maggio, Caserta, un muratore disoccupato si impicca nell'abitazione. 2 maggio, Catania, un 35enne perde il lavoro, si getta dal terrazzo. 3 maggio, Treviso, un imprenditore in crisi si impicca. Ancora 3 maggio, Modena questa volta, un disoccupato 52enne da anni senza lavoro si uccide. 3 maggio, Arezzo, troppo pesante la rata del mutuo oramai e si uccide, non riusciva a pagarlo, aveva lasciato la casa. 5 maggio, Enna, un precario 47enne si impicca a casa. 6 maggio, Pozzuoli, un 72enne si spara dopo aver ricevuto l'ennesima cartella erariale. 6 maggio, Trani, tenta il suicidio buttandosi dalla finestra. Vedi come sopra, cartella erariale. 6 maggio, Arezzo, non può pagare mutuo, si getta nel vuoto. 6 maggio, Venezia, un artigiano si impicca per difficoltà economiche. 7 maggio, Pontedera, in Toscana, tenta il suicidio sotto il treno. Un'anziana, miracolosamente illesa, per fortuna. 7 maggio, sempre, Bergamo, troppi debiti, tenta il suicidio, ma la figlia lo salva. 7 maggio, Vicenza, proprietario di un'agenzia immobiliare, si impicca. Purtroppo ci riesce, in un parco. 7 maggio sempre, Bologna, si impicca nel suo negozio per debiti con Equitalia. 7 maggio, Lecco, imprenditore si impicca per le tasse, la figlia riesce a salvarlo all'ultimo secondo. 8 maggio, Torino, si butta nel Po dopo cartella Equitalia. 8 maggio, Cesate, Lombardia, imprenditore 60enne si impicca, purtroppo ci riesce. 8 maggio, Salerno, da Natale senza lavoro si spara al petto. 8 maggio, Salerno, 43enne disoccupato, si impicca. Ancora 8 maggio, Bologna, 55enne, si impicca nel dormitorio. Ancora 8 maggio, Napoli, un vigile sanitario si spara in bocca. Ancora 8 maggio, Frosinone, un imprenditore si suicida sparandosi con il suo fucile. E lo stesso giorno a Saronno un imprenditore si uccide per troppi debiti. 9 maggio finalmente, Prato, perde la pensione del padre, si impicca. 9 maggio, Pompei, un imprenditore si uccide, lascia 3 lettere e accuse Equitalia. 9 maggio, Torre del Greco, armatore, muore di infarto in seguito a un controllo della finanza. 10 maggio, Catania, suicida giovane imprenditore, si spara un colpo in testa. 11 maggio, Vicenza, questo è un camionista invece, in difficoltà economiche, si impicca nel suo camion. 11 maggio sempre, Caltanissetta, un idraulico di 54 anni, stanco del poco lavoro e delle troppe tasse, si dà fuoco. 11 maggio, Molfetta, Puglia, imprenditore impiantista di 48 anni, si impicca. 11 maggio sempre, Torino, un 73enne si spara, oppresso dalle tasse. Sempre 11 maggio, Porto Torres, Sardegna, un 50enne disoccupato, tenta di darsi fuoco. 14 maggio, Torino, 73enne imprenditore, muore. Era quello che si era sparato l'11 maggio. 14 maggio, Padova, antiquario si impicca e 3 figli disabili vengono alla salma per 3 giorni. 14 maggio, Arona, imprenditore torna dai genitori in Piemonte e si suicida. L'indomani, il 15, una donna si getta dalla torre di Pisa. 15 maggio, Ventimiglia, si impicca per motivi economici, però la polizia lo salva, per fortuna. Ancora a Venezia, 15 maggio, annuncia il suicidio, un imprenditore finisce in ospedale a Vicenza. 16 maggio, un dirigente della Coop, questa volta, Imperia, si spara la testa per difficoltà della sua azienda. Catania, 16 maggio, un manovale 53enne si impicca una trave. 18 maggio, Sorrento, un assicuratore suicida nell'hotel Parco dei Principi. Andiamo al 21 maggio, Brescia, padre disoccupato si getta dalla finestra con i figli, tutti morti. Sempre il 21, a Roma, aveva problemi economici e un uomo si impicca. Il 22 maggio, Avellino, non riesce più a pagare gli esattori, imprenditore suicida con una fucilata. 23 maggio, Foggia, auto giù dalla scogliera, morto imprenditore e suicidio. 23 maggio, Padova, non hai soldi per la gita del figlio, lui è disoccupato, non hai soldi per pagare l'affitto, tenta il suicidio tagliandosi la vena. 24 maggio, Vicenza, imprenditore si uccide per problemi economici. 24 maggio, Genova, Equitalia gli pignora la casa, artigiano si impicca. 25 maggio, Vicenza, imprenditore si impicca ed è due mesi dopo che lo fa, dopo un suo dipendente che ha fatto la stessa cosa. 25 maggio, Ostia, una donna di 38 anni suicida in spiaggia per problemi economici. 25 maggio, San Bensan, riceve cartelle Equitalia, artigiano si suicida in cantiere. 26 maggio, Teramo, costruttore edile di 49 anni, si uccide, aveva problemi economici. 27 maggio, Cagliari, oppresso dalle tasse, prima tenta con il gas, poi si spara. 27 maggio, sempre Terno, operaio disoccupato, si impicca. 27 maggio, Ancona, disoccupato, si lancia dalla finestra. 30 maggio, Viterbo, suicida per difficoltà economiche. E il 31 maggio ad Avellino, un ambulante che si uccide nel suo stand, non riusciva a pagare il mutuo. 2 giugno, Livorno, da fuoco alla casa e poi si impicca, ma prima mette in salvo i cani. 3 giugno, Venezia, guarda giurata si spara in azienda, non sapeva come fare a pagare l'affitto. 3 giugno, Velletri, 52 anni, si impicca in casa, era senza lavoro da un anno. 3 giugno, Quarto Sant'Elena, un giovane imprenditore elettricista, si impicca. 3 giugno, Piacenza, un pensionato a 75 anni, si uccide sparandosi in strada, gli avevano diminuito la pensione. 3 giugno, Matera, imprenditore si suicida. 4 giugno, Cagliari, un pensionato si getta dal campanile durante la messa, gli hanno abbassato la pensione. Purtroppo prosegue la funzione mentre lo fa. Guardi, io direi che mi fermo al 4 di giugno, perché ovviamente ce n'è così fino alla fine dell'anno e come vedete sono andato avanti 8 minuti incessantemente. È possibile o non è possibile che non ci rendiamo conto della gravità di quello che è successo in questo 2012? Non intendo alzare la voce, non intendo speculare in nessun modo, non intendo accusare nessuno se non gli uomini politici che non sono andati a tutti questi funerali, non a uno di essi. Non hanno saputo dimostrare che cos'è quell'elementare senso di coesione, di appartenenza a una comunità e di comprensione di quanta grave sia la sofferenza per alcuni milioni di italiani che non hanno reddito disponibile e per molti anche imprenditori costretti a chiudere, a essere travolti, a non avere più quel minimo senso di onore che è ciò che spinge l'imprenditore, anche il più piccolo, anche il meno produttivo e patrimonializzato, a dare lavoro e a distribuire reddito, non solo per sé e la sua famiglia, ma anche per altri. Allora, so che l'ho fatta lunga, ma ne valeva la pena, perché bisogna onorarle queste vittime e bisogna pensare a un paese che deve dare il giusto tributo a questo, invece che pensare a Berlusconi che deve tornare e a Bersani che ha già vinto. Parliamo di queste cose qua, lo faremo sia pure in fretta dopo la pubblicità. 9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta a 9.36 primi 21 secondi. Un saluto sia a chi ci segue nella replica ristretta serale sia a chi in podcast. Sì, l'ho fatto apposta, molti di voi hanno scritto sms al 349-238-6666 dicendo no, ma quello che conta è solo le statistiche. No, quello che conta, ragazzi, è innanzitutto avere presente il terribile ripetersi più che quotidiano di eventi di questo genere. Perché, ripeto, in presenza di una discontinuità di impresa, dove rischiamo 100.000 imprese in meno in questo 2012 e perdita di reddito e perdita di consumi così rilevante, e dopo anni in cui la produttività è così bassa e tutto si accentra e lo Stato prende per sé ed è fiero del fatto che invece le sue entrate aumentino, ecco, allora non cede del suo, i suoi attivi patrimoniali non li cede per abbattere il debito, anzi vi dicono alle prossime elezioni che c'è una nuova patrimoniale in arrivo e a un terzo di voi pare che questo piaccia, benissimo, accomodatevi. Detto tutto questo, bisogna avere presente che questo è quello che capita ogni giorno nel paese per effetto della crisi, questo. E quindi non c'è questione di animare una polemica shocking, come alcuni dicono questo è pulp. No, non è affatto pulp, questa è gente che si è sparata, impiccata, buttata di sotto, uccisa con i figli, ecco. Tentiamo di non dimenticarcelo cosa vuol dire per un lavoratore disoccupato, disperato, come per tanti piccoli imprenditori così numerosi in questo 2012 assumere decisioni di questo tipo, è un fenomeno di fronte al quale voi non potete ridurla a stai col governo o non stai col governo, come molti di voi automaticamente fanno, e che è il peggior residuo di questi 20 anni di scontro muscolare, Berlusconi sì, Berlusconi no, continuate ad avercela in testa questa roba qua. I fenomeni esistono perché hanno una loro oggettività e una dignità in sé, non se giovano o contrastano gli interessi del governo in carica. Mio Dio, lasciate che ve lo dica. Allora abbiamo con noi una giovane imprenditrice che alla fine dell'anno scorso, un anno fa, partì in quarta esattamente di fronte a questo fenomeno degli suicidi dei piccoli imprenditori, degli artigiani, dei commercianti e così via, e che ha iniziato ad animare una pagina su Facebook, Piccoli Imprenditori Suicidi di Stato. Si chiama Simona Pedrazzini e con noi io la ringrazio perché lei fa quello che molti ufficiali pubblici non hanno mai fatto. Grazie e buongiorno Simona Pedrazzini. Pronto? Oscar. Eccoci. Eccoci qua, grazie di avermi chiamato innanzitutto perché finalmente riesco ad esprimere quello che è il nostro dramma in una emittente radiofonica, Radio 24 come la vostra, che è un'importanza enorme per noi piccoli imprenditori e suicidi di Stato. Noi stiamo vivendo un dramma che oramai ha assunto dimensioni assolutamente imprevedibili ed incontrollabili, Oscar. Io ricevo quotidianamente richieste d'aiuto e il fatto di non poter aiutare se non attraverso la mia voce, attraverso i miei appelli, attraverso il mio grido d'aiuto su un social network come Facebook, più di questo io non, al momento non riesco a fare, mi trovo di fronte a delle difficoltà anche di ascolto enormi ed è per questo che ancora una volta vorrei ringraziarti, perché non è facile affrontare in un momento come questo un argomento come questo, dove si è sempre cercato di nascondere e di farne per l'appunto una questione di statistica. Qui la statistica oramai ha perso ogni significato. Qui parliamo della vita delle persone. Quell'elenco drammatico che tu hai letto questa mattina riguarda soltanto i nostri lutti nel 2012 e si fermano ad agosto, altri ce ne sono stati nel 2011, altri ce ne sono stati nel 2010, dal 2007, perché noi viviamo la crisi dall'inizio. E se all'inizio noi come piccoli imprenditori credevamo di essere probabilmente noi gli incapaci, noi quelli che fallivamo perché non eravamo in grado di fare impresa, attraverso il mio piccolissimo, modestissimo grido d'aiuto, che poi fondamentalmente è partito da me come un grido d'aiuto, vivendo io in prima persona e sulla mia pelle le conseguenze di questo tsunami che ci è venuto addosso, ci siamo resi conto di non essere soli e soli in questi abbiamo potuto, se non altro, ecco, condividere i nostri problemi. L'aiuto che io riesco a dare è soltanto questo per il momento, una condivisione dei problemi e sentirci meno soli, perché allora ci si rende conto: non sono io che sono l'incapace, non sono io che sono il fallito, non sono io che ho provocato tutto questo per i miei collaboratori, per i miei dipendenti, per la mia famiglia, ma siamo tanti, quindi la causa è al di fuori di noi, Oscar. E una delle cause che attualmente sta aggravando in modo pesantissimo questa situazione è la paura. Oscar, noi viviamo quotidianamente nella paura. La paura, abbiamo addirittura paura del postino, paura di di quando suona il citofono, paura del telefono. E io sfido chiunque, essere umano, a vivere 24 ore su 24 con una spada di Damocle così sulla testa. E un qualcosa che potrebbe portarti via la tua casa, la casa dove vivi, e quindi non riuscire più a dare un tetto ai tuoi figli, alla tua famiglia. Ed è una delle prime cause di suicidio. Io chiedo veramente e faccio un appello con il cuore in mano. Io so che moltissimi dei miei fratelli e sorelle di piccoli imprenditori suicidi di Stato in questo momento mi stanno ascoltando e confidano nel fatto che io dica queste cose. Io allora faccio un appello col cuore a chi può, e so che si potrebbero fare delle cose, non cose difficili, non cose impossibili, di darci una mano. Darci una mano vuol dire, per esempio, impedire alle banche la cartolarizzazione dei debiti, perché poi alla fine un imprenditore va in banca e non sa più nemmeno chi sia il suo creditore. Impedire il pignoramento della prima casa. In Spagna è stato fatto, perché non si può fare anche qui? Lo Stato ci richiede il DURC non solo per poter acquisire i lavori, ce lo chiede anche per essere pagati sui lavori fatti, ma lo Stato come può pretendere che noi si abbia la liquidità per essere in regola con i contributi quando è il primo a non rispettare i termini contrattuali o d'ordine, non pagandoci? E poi arrivano a pignorarti anche gli strumenti di lavoro. Se a un artigiano viene pignorato il furgone piuttosto che il tornio con cui produce i suoi pezzi, come si può pensare che questa persona possa alla fine guadagnare abbastanza per pagare i suoi debiti? A me sembra una cosa così logica e così ovvia, e non mi rendo conto di come i nostri governanti e i nostri politici non facciano niente per questo. Per noi non è stato fatto nulla, Oscar, nulla in tutti questi anni. Io ho una piccola azienda e vivo insieme a tutti i miei colleghi questa tragica situazione. E abbiamo problemi di liquidità nell'affrontare le commesse, perché le banche in questo momento sono molto restie a concedere prestiti, finanziamenti, riducono i castelletti per l'anticipo delle fatture, abbiamo una montagna di insoluti, non riusciamo a farci pagare. E chi io mi chiedo, chi ci deve aiutare, Oscar? Chi ci deve aiutare in questo momento se non il nostro governo e il nostro Stato? Noi siamo cittadini come tutti gli altri, non siamo cittadini di serie B. Tutti insieme noi facciamo 100 ILVA. Perché lo Stato interviene sull'ILVA e non aiuta noi? Perché? Allora, Simona, io ti ho lasciato, come era inevitabilmente giusto, senza interromperti, pronunciare tutto il tuo appello, che è accorato, perché è da un anno che Simona si prodiga tutti i giorni per gli altri, per i suoi fratelli piccoli imprenditori che hanno problemi. Qualcuno manda sms dicendo: ma che cos'è, una specie di commedia, il dolore di imprenditore non vale più degli altri? Infatti nella lista io ho messo i pensionati che si suicidano, ho messo i disoccupati che si suicidano. Lungi dalla mia intenzione, è intollerabile la sola idea che si possa distinguere il piccolo imprenditore che si uccide dal pensionato, dal disoccupato. Questi sono suicidi economici, questo è il fenomeno di cui stiamo parlando, e lo dico a tutti coloro che sono in ascolto. Quando Simona dice gli aiuti di Stato, e qualcuno a casa dice: beh, ma non è che al pensionato allora l'aiuto. Il problema è che in questo caso gli aiuti che si chiedono allo Stato sono uno Stato meno asimmetricamente e intollerabilmente disattento rispetto agli obblighi che chiede ai privati di mettere in atto tra sé. In Spagna, per esempio, che Simona ricordava bene a ragione, in Spagna lo Stato nella crisi ha messo in pagamento 30 miliardi di euro di debiti commerciali che doveva ai suoi fornitori. Da noi invece lo Stato ha promesso un problema di iniziare a pagarne un decimo dall'anno prossimo, un decimo degli oltre 100 miliardi e così via. Il pignoramento prima casa altrove di fronte alla crisi sospeso, da noi no. Quindi qui non si tratta di dire lo Stato metta mano al portafoglio, lo Stato non si comporta non si comporti intollerabilmente e ladrescamente come continua a comportarsi, per così dire. La moratoria sugli interessi, per esempio, delle cartelle erariali, quando ci sono degli imprenditori che non hanno niente a che vedere con gli evasori totali e vanno all'Agenzia delle Entrate dicendo: ragazzi, noi cosa volete? Volete spingerci a chiudere? O piuttosto ci mettiamo d'accordo sulla moratoria. C'è una rateizzazione, ma non basta, perché come testimoniano le migliaia di case che ci vengono segnalate in questi anni, tu da 4 a 5 mila euro riesci ad arrivare a 12, 15, 18 mila euro, in meno che non si dica, ed è un lupo di fronte al quale poi la gente prende la pistola e si spara. Non spara a te, non deve farlo l'Agenzia delle Entrate, però si spara in testa lei. Allora, io ricordo a tutti che in Veneto in particolare sono nate associazioni come Speranza al Lavoro, creata dalle figlie di imprenditori morti suicidi, ci sono associazioni come Terraferma, insomma c'è chi si è dato da fare. Veneto è anche stata l'unica regione che ha avuto un centralino, un centro di ascolto anche con l'intervento della regione, altrove queste robe sono totalmente mancate. Quindi io ringrazio Simona Pedrazzini. Ricordo a tutti che il gruppo Facebook si chiama Piccolo Imprenditore e Suicidi di Stato. Io continuerò, a costo di annoiare i miei ascoltatori, a richiamare l'attenzione su questa roba. Onore a tutti coloro che hanno preso questa decisione che era sbagliata, onore a loro e un abbraccio caldo a tutti i loro cari, di pensionati, di disoccupati, di portieri d'albergo, di piccoli imprenditori, artigiani, commercianti. Non c'è differenza tra questo, è la morte di un paese che oramai a milioni di italiani non dà quel reddito disponibile che equivale alla dignità, e a chi ha avuto impresa dal disonore di dire: da domani tu non sei più niente, meno di niente, e se anche se mi dici non avere i soldi per pagarmi, io te li chiedo lo stesso e ti rovino. Andiamo alle strade. 9 in punto, la versione di Oscar. Allora, Jim Morrison con This Is The End, purtroppo oggi con questo tema dei suicidi purtroppo è appropriato, ma abbiamo tenuto alla fine un tema che avremmo dato molto più spazio se nottetempo per una volta la Ragioneria Generale non avesse fatto una cosa buona, perché hanno bocciato l'emendamento che era comparso nel decreto sviluppo ed era un emendamento truffa truffa ambiguità, il ladro sempre qua sta, perché è lo Stato ovviamente, cioè PD e PDL volevano dettare loro le condizioni con un decreto dell'economia, cioè lo Stato, le condizioni per la locazione e per la vendita del patrimonio immobiliare delle case previdenziali private, capisce? Lo Stato non cede il suo di attivo immobiliare, però vuole dire ai privati come si affitta, a che prezzo, come si vende, a che prezzo. Questo era l'emendamento PD-PDL, uniti, i ladri di notte agiscono. Allora avevamo chiamato il presidente di Enasarco, adesso gli diamo solo i minuti finali perché siamo contenti, avendo già ieri gettato l'allarme, di avere, per così dire, sventato la roba. Però Brunetto Boco, il presidente di Enasarco, che ripeto è la cassa in questo caso degli agenti di commercio, stiamo parlando di un patrimonio immobiliare costruito con i contributi dei lavoratori privati, e lo Stato voleva spiegare lui a quale prezzo a vendere e affittare. Bocco, buongiorno presidente, l'abbiamo buongiorno. Sventato per sempre secondo lei questo attacco? Guardi, è una cosa incredibile, perché dobbiamo precisare che questo attacco viene dai parlamentari di Roma, e l'obiettivo è solo elettorale. I vantaggi per gli inquilini discutibili, avrebbe creato un blocco delle vendite per circa 12-16 mesi, e quello che non si vuole capire è che la Fondazione Enasarco paga 100.000 pensioni, il patrimonio è funzionale alla sostenibilità della Fondazione, la missione sono le pensioni agli agenti, non sono gli inquilini, anche se noi per vendere abbiamo fatto un accordo sindacale che tiene presente che cosa? Che l'intenzione di Enasarco di non creare un disagio sociale esteso sulla città di Roma, ma oltre questo non si può chiedere alla fondazione. Il patrimonio è stato costituito con i contributi previdenziali degli agenti e con le indennità di liquidazione degli agenti. E come si fa a mettere mano, come si può dire, a questo patrimonio per favorire gli inquilini e chiedere alle casse di svendere le proprie case? Questo non va bene non solo per le casse private, ma neanche per il patrimonio pubblico. Un conto sono gli sconti di mercato che vanno considerati e questi vanno incontro agli inquilini che già abitano i nostri appartamenti, ma più di questo non si deve fare. Sono d'accordo con il presidente De Nasarco, giù le mani dallo Stato, dai mattoni dei privati, venda i suoi di mattoni per abbattere il debito, sventata la manovra elettorale per Roma, viva viva il mattone del privato, per noi appuntamento a domani con Sua Eminenza il Cardinale Arcivescovo di Milano, Scola, a domani. Radio 24, la passione si sente.